Ahoi. Radio Aktion. Radio Aktion. Radio Aktion. Radio Aktion. Radio Aktion. Radio Aktion. Radio Aktion. Radio Aktion. Radio Aktion. Finora i compagni sono stati vicino a noi. Ora la solitudine li inghiottisce e li fanno sparire dalla nostra vita le diverse strade che hanno preso. E forse sono strade di seconda mano, difficili da trovare. Li fa perdere alla nostra vista anche il tempo. C'è stato possibile seguirli per delle giornate piene. Ora bisogna andare con calma alla loro ricerca, aspettare magari che passino dei giorni o dei mesi prima di ritrovarli. Ma li ritroveremo uno per uno, perché essi non possono star lontani dalla gente. Essi lavorano in mezzo alla gente, vengono sempre a galla per vie diverse. Nessuno di loro si perderà, li ritroveremo tutti, perché essi indicano una generazione e una generazione non si può perdere. Questo era Stefano Terra, la generazione che non perdona. E invece questa radiazione ha diretta d'azione il venerdì 18 gennaio. Si aspetta sempre il solito orario per iniziare con le comunicate. Oggi ci sono più belle notizie che cattive. Allora, ascoltiamo un altro brano, poi ritorneremo, daremo gli indirizzi utili per radiazione e poi ancora un'altra musica. 16:15, si parte con comunicati, azioni e quanto di buono. questi, per chi non l'avesse capito, erano Bauhaus con il brano The Sanity Assassin. Allora, passiamo subito a dare contatti utili per radiazione, contatti che finalmente iniziano a funzionare, qualcuno inizia a scrivere, a dare anche consigli. Un consiglio è stato accettato e poi più tardi a chi seguirà tutta la diretta saprà cosa ci sarà poi dopo. Allora, partiamo subito con la mail di radiazione, per chi vuole mandare, come al solito, scritti, consigli, notizie, locandine, manifesti, riviste online, un po' tutto quello che si può mandare attraverso una mail, lo può fare attraverso la mail di radiazione, radiazione@autistici.org. Invece, per il blog, per seguire tutte le notizie, tutti i comunicati, le lettere dal carcere, ma anche altre cose, ci sarà una nuova pagina da stasera in poi, ed è questa sarà la sorpresa che vi dicevo prima. Insomma, tutto quello che viene che si legge durante le dirette d'azione lo potete leggere anche sul blog di Radiazione, radiazione.noblogs.org. Lì ovviamente potete trovare anche altre cose, tipo c'è una sezione video, c'è una sezione download dove potete scaricare degli opuscoli, c'è la sezione Oscenità Nova per distarsi un po' e chi c'ha voglia farsi due risate, una presa per il culo a Umanità Nova sarebbe questa, e quindi da stasera una nuova pagina, non ve lo dico, ve lo dirò alla fine, anche perché siamo in fase sperimentale, quindi se c'è gli si dice, altrimenti se non è partorita, sti cazzi. Allora, ancora musica, prima di partire con le dirette, sono le 16:12, ci possiamo palleggiare ancora altri 5 minuti, 5-6 minuti, vediamo. Allora, il prossimo gruppo ad arrivare sono Pinto and Blues, e il brano è Missing You. I could be somewhere, lost in the dance. I could be a horse, I could be a car. Pinto and Blues Missing You, li troveremo, li cercheremo, prima o poi li scoveremo e sarà festa. Allora, a parte sta stronzata, vi ho detto, allora non vi avevo detto giustamente il link per la radio, ma chi l'ascolta lo sa, però si dà l'alternativa sul blog di radiazione, che è quella di non passare direttamente dal sito dove si accende la radio, ma dal blog c'è un banner tondo, un'immagine, ci si clicca sopra e si accende direttamente la radio. Oggi è tutta una bella diretta, tutta d'azione, sarà una buona giornata, ci rattristeremo poco, ci sono poche notizie brutte. Allora, ancora un altro brano e poi subito con la prima controinfo. Il prossimo gruppo sono Chain Lab, il brano è Atomic Automatic. Your best copy protection. Atomic Automatic Cell Lab. E allora, prima di iniziare con la prima notizia di Contrainfo, presa dal sito anche dei compagni di Contrainfo, volevo salutare un po' e ringraziare le persone che scrivono alla mail della radio dando dei consigli, e le persone che comunque collaborano, cioè mandandoci materiale per aggiornare anche il blog. Ricordo che oggi c'è una sorpresa. La sorpresa, praticamente l'altro giorno, mentre si faceva la lettura, la classica lettura del libro Black Flag nella diretta di lunedì, c'è stato un problema col microfono. Ci dispiace, un po' di gente è andata via perché penso che non si sentiva più un cazzo, si sentiva male. Ce ne siamo accorti tardi, io e Marcello abbiamo sostituito il microfono, però un bel po' di gente era andata via, e quindi si era pensato alla fine di iniziare a fare anche un podcast, cioè praticamente la registrazione della diretta da poi mettere sul blog, così anche chi non ci avesse la possibilità di ascoltare negli orari in cui c'è la diretta la può ascoltare in qualsiasi ora del giorno, il giorno dopo, un mese dopo, un anno dopo, boh, fate voi, non lo so. C'era st'idea, e praticamente poi nemmeno a farla apposta è arrivata una mail da parte di un compagno che ci chiedeva il podcast. Ebbene, vabbè, ora vi anticipo la notizia. Praticamente la nuova pagina che ci sarà sul blog da stasera in poi sarà la pagina dove ascoltare le dirette d'azione quando volete. Quindi dalla diretta di oggi la trovate sulla pagina del blog, non lo so ancora come si chiamerà, ma però potete ascoltare la diretta quando volete. Allora, ringrazio ovviamente anche il compagno che ci ha scritto, e ha scritto chiedendo anche di fare un podcast, perché ovviamente c'è qualcuno che lavora, c'è qualcuno che c'ha da fare i cazzi suoi in queste, nelle ore che va la diretta, e quindi ovviamente. Allora, la prima notizia arriva dalla Grecia, è di qualche giorno fa, del 15 gennaio, la prendiamo dal blog, dal sito dei compagni greci di Contrainfo, la sezione italiana. Praticamente il 15 gennaio alle ore 12 circa i poliziotti hanno fatto irruzione nell'occupazione anarchica più vecchia della Grecia, l'Hellas Karagiannis 37, solidali e vicini del quartiere. Si sono riuniti a piazza Merikis e poi fuori dall'occupazione cercando di evitare lo sfratto. Ci sono stati alcuni compagni sul tetto dell'edificio che poi sono stati arrestati dagli sbirri. Poco dopo sempre più persone si sono radunate vicino all'occupazione sfrattata. Un raduno è stato chiamato per le 15 al di fuori del quartier generale della polizia Gada del viale Alexandras, in solidarietà con i 14 occupanti che erano stati arrestati all'interno dell'occupazione di Hellas Karagiannis, e una discussione è stata annunciata per le 19 all'Università del Politecnico di Atene, ingresso via Sonnari. Tutti i compagni sono stati rilasciati circa alle 17, i poliziotti hanno lasciato il posto e l'occupazione, e Hellas Karagiannis 37 è stata rioccupata. Allora, ora Hate You Feel dei Nozzy Unite, e poi dopo andiamo a leggere la buona notizia. E questi erano Noise Unite, Hate You Feel, l'odio che senti è... che hanno sentito i compagni in Grecia dopo l'ennesimo attacco nemmeno nel giro di 2 settimane nei confronti di un'occupazione. Abbiamo parlato nelle dirette precedenti degli sgomberi, degli arresti avvenuti per quanto riguardava lo sgombero di Villa Malias ad Atene, come quella l'attacco alla radio 98 FM nella facoltà di economia e commercio, quella alla sede di uno dei partiti che fa parte del tripartitico in Grecia, quello di Scaramaga e poi per non finire quella che abbiamo letto di oggi di Lelas Karagiannis. Allora c'è stato pronto subito una buona risposta da parte dei compagni, che hanno risposto a tutti questi attacchi, a tutti questi arresti con 3 giorni di fuoco ad Atene e non solo. Ci andiamo a leggere il testo di rivendicazione degli attacchi. 15 gennaio 2013, ogni volta che ci attaccate reagiremo. Avete sfrattato i nostri palazzi, imprigionato i nostri compagni e attaccato le nostre manifestazioni. Abbiamo dato fuoco ai vostri uffici, le vostre banche e le vostre filiali di servizi. Avete represso il movimento sovversivo e radicale a fine di vendere la pace, l'ordine e la sicurezza. Avete lanciato attacchi contro di noi perché volete strizzare l'occhio ai vostri elettori di destra che stanno deviando dalle vostre file verso l'alba dorata, a fine di mostrargli che siete ugualmente fascisti. Tentate di mantenere il vostro dominio investendo nel confronto con l'illegalità. Ci combattete solo per nascondere i vostri scandali più spregevoli, la vostra corruzione e coinvolgimento corruzione negli affari. Condannate la violenza mentre gettate intere popolazioni nella miseria. Proclamiamo la fine del vostro mondo, gettiamo già le basi per la nostra civiltà e ci spandiamo continuamente. Non vogliamo avere alcun rapporto con i vostri valori marci, solidarietà, libertà, uguaglianza. Questi sono i nostri principi. Togliete le mani dai nostri progetti e dai nostri compagni. I vostri sforzi per fermare la nostra espansione cadrà nel vuoto. Ciò è stato dimostrato dalla manifestazione di protesta di sabato 12 gennaio, questo è stato dimostrato nelle notti fiammeggianti prima di oggi. Rivendichiamo la responsabilità degli attacchi di 3 giorni, venerdì, sabato, domenica, dall'11 al 13 gennaio. Quindi questi comandi rivendicano gli attacchi alle filiali locali delle seguenti organizzazioni: gli uffici del partito Nea Democratia a Daphni, a Landri, a Gifada, a Agriropoli e a Kipseli. Ribadisco ancora una volta, non state a sentire a me, poi ve le leggete meglio su blog, perché i nomi greci per me sono sempre una tragedia. Poi ancora gli uffici del partito PASOK a Glifada, gli uffici dell'ente pubblica dell'elettricità a Menidi, agli sportelli bancari ATM a Vironas, 2 bancomat nello stesso quartiere, Nea Smirni, Neo Iraklio, Kaisariani, 2 bancomat nello stesso quartiere, Kipseli a Papagou, a Drapezzona, 2 bancomat sempre nello stesso quartiere, 2 filiali ancora bancari a Kaisariani, una macchina del corpo diplomatico ad Ellenico, un veicolo delle poste elleniche Elta a Ilion e infine la moto di un poliziotto a Zografu. Solidarietà ai compagni, agli occupanti di Villa Malias, Scaramaga e Lelas Karagiannis e altri compagni che sono perseguitati. Questo era il testo rivendicativo, vi ricordo, se volete leggervi bene i nomi dove sono stati effettuati questi attacchi, li potete trovare su blog di radiazione.noblogs.org. Purtroppo la mia pronuncia greca è da pezzente, quindi allora ci andiamo a ascoltare subito, almeno mi ripiglio pure un attimo un pochino dopo sta sfilza di nomi greci, un brano degli Ultravox, il brano è Young Savage. We'll be right back. John Savage Ultravox. Allora, ve l'avevo promesso che oggi, a parte qualche notizia un pochino di merda, ce n'erano un bel po' di carine. Si è partito con quella dello sgombero, che fortunatamente con il rilascio dei compagni dopo lo sgombero dell'occupazione Lella Scaragiani, per poi passare alla 3 giorni di risposta dei compagni che hanno messo a ferro e fuoco un bel po' di posti a loro cari, no, a loro, ai compagni, ai repressori molto cari. Allora, un'altra notizia buona ci arriva da Nottingham, dal Regno Unito, dove sono stati attaccati dei veicoli della J4S. Ci leggiamo direttamente il comunicato senza anticipare nulla, tanto vi dice tutto il comunicato e non c'è da aggiungere nulla, ovviamente. Allora, mercoledì 9 gennaio 2013 all'alba abbiamo fatto un paio di azioni rapide di amore e di autodifesa. Abbiamo smontato le ruote a 2 veicoli della J4S, società di sicurezza privata, gli abbiamo tolto la vernice e rotte le finestre. Lo abbiamo fatto in solidarietà con i nostri amici detenuti nell'HMP, sarebbe la prigione di Sua Maestà, a Nottingham, e come messaggio speciale per la nostra compagna a Roma, Elisa Di Bernardo, il cui coraggio e devozione sono fonte di ispirazione per noi altri. G4S è una società globale che beneficia di torture e ingabbiamento della classe operaia in tutto il mondo. Chi imprigiona e tortura per mantenere l'ordine capitalistico delle cose, a nostro avviso, deve essere attaccato in ogni occasione. Gli uomini e donne assassinati per G4S e il suo complesso carcerario industriale, che sono inseparabili, e in aumento ogni giorno. Il numero di coloro che vedono le loro vite distrutte dal G4S aumenta ogni ora. G4S è il nostro odio e il nostro amore per i fratelli e le sorelle, aumenta ogni secondo. La nostra notte, il nostro gesto di martedì notte era piccolo ma ripetibile e si ripeterà ogni volta. Affanculo le carceri per la libertà, per l'amicizia. E questi erano i compagni che arrivano direttamente da Nottingham. Fortunatamente iniziano ad arrivare notizie anche da posti dove normalmente non accade quasi nulla. Allora, prossimo brano, tanto per stare in tema, Rebels in Control, KMFDM. Warrior, in the bar to be tried in Kangaroo courts for the crimes committed against humanity. Captain K is presiding over an emergency session of the UN Security Council in order to instate local interim governments before free and fair elections will be held. Make the rules up as we go! E questi erano KFDM, Rebels in Control, a parte l'ultima frase che si fa un po' cagare, vabbè, togliamo, non abbiamo un ennesimo argomento a vuoto. Allora, prima di leggere la prossima notizia, la prossima azione più che altro, volevo dare un po' di informazioni su qualche iniziativa che si terrà prossimamente. Il 2 febbraio ancora non c'ho la conferma di tutto, cioè dovrebbe esserci questa data, ci sarà un'iniziativa benefit per Alfredo e Nicola, nella settimana tra il 15 e 21, se ho capito bene, queste sono le date disponibili che ci sono state date a me e un altro compagno, si terrà una mostra, si terrà la mostra in solidarietà con Marco Kamenisch, la mostra messa a disposizione dai compagni delle Alpi Occidentali, faremo un'iniziativa, un benefit, vediamo un attimo, è ancora tutto in fase di costruzione, sicuramente intorno a quelle date per chi è di Napoli dal 14 al 21, troverete la locandina sia sul blog di redazione sia per strada per chi è di Napoli per l'appunto. Invece volevo fare non una delega, è un invito perché praticamente servirebbe un po' di soldini ai compagni detenuti nell'inchiesta Ardire, in particolar modo a Stefano Elisa, più altro soldi che servono per le spese legali, quindi chi sta ascoltando ora, chi ha la possibilità di avere un boss dove fare un benefit, oppure tirare un po' di soldi, oppure li mandate di tasca vostra, vabbè, fate qualcosa perché serve un aiuto a questi compagni. Io vi ho dato la notizia, voi fate come cazzo volete voi, nel senso, cioè, usate il modo più adatto per tirare su una cosa di soldi. Allora, prossima notizia arriva sempre dal Regno Unito, abbiamo detto prima, un posto dove negli ultimi anni era successo poco e niente, invece è l'Italia il posto dove sta succedendo poco e un cazzo da un bel po' di tempo a questa parte. Allora, la notizia arriva da Bristol, come dice, dove sono state attaccate auto dei secondini. Ci andiamo a leggere il testo di rivendicazione. Il 9 gennaio 2013, poco dopo la mezzanotte, alcuni veicoli di proprietà degli ufficiali della prigione di Bristol, Cambridge e Orfield sono stati danneggiati usando svendicciature e lacerando i pneumatici anteriori. Questo è successo in Bryland Avenue in Ashleytown. Gli ufficiali sono fortemente legati a un sistema che mantiene le persone sottomesse al loro posto. Ogni giorno veniamo monitorati, ma oggi 9 gennaio quegli ufficiali con le loro auto danneggiate hanno scoperto di essere stati loro gli osservati. Ciò è stato molto semplice da fare, non c'è bisogno di nessuna capacità particolare. La nostra lotta è da entrambi i lati del muro e da entrambi i lati della moneta. Ci sono lezioni che devono essere imparate da tutti. Alcuni per ragioni di sicurezza hanno scelto di lottare da una posizione di clandestinità e altri sono una faccia pubblica, creano reti, escono all'esterno e portano dentro sangue nuovo. Questo piccolo attacco è stato fatto con tutti, in solidarietà con tutti gli animali e tutti gli umani in gabbia ben presenti nelle nostre menti. Ora ci ascoltiamo ancora un altro brano, The Futureheads, The Beginnings of the Twist, e poi dopo si torna qui con un'altra azione. We'll be right back. started with the kiss. If memory serves, then why am I still waiting for it to return? My head feels like it's just about to slip. This morning is just a blur. Today lingers on like a bad year. I can feel it. I can feel it. I can feel it coming. I'm beginning on the twist. I can feel it. I can feel it. I can feel it coming. I'm beginning on the twist. I can feel it. I can feel it. Beginning on the twist. I can feel it. I can feel it. I can feel it coming. I'm beginning on the twist. We get along well. We talk a lot. I made some promises. I guess that I've totally forgot. Forgive me, my mind is there, I swear. Feels like somebody's throwing it down the stairs. It's not good enough. You tried to send excuses before. I thought you knew enough about it, but you still want more. Today I don't feel so ill. If only I could find the time I want to kill. I can feel it. I can feel it. I can feel it coming. I'm beginning on the twist. I can feel it. I can feel it. I can feel it coming. I'm beginning on the twist. I can feel it. I can feel it. Beginning of the twist. I can feel it. I can feel it. I can feel it coming. I'm beginning of the twist. I can feel it. I can feel it. I can feel it coming. I'm beginning of the twist. I can feel it. I can feel it. The Beginning of the Twist, The Future Heads. Allora, vi ho detto della prossima azione, invece ne leggiamo un paio, anche perché sono brevi brevi, prima di ascoltarci ancora un altro brano e poi passare ad una lettera che ci arriva dal carcere. Allora, la prima azione che si va a leggere è di qualche giorno fa, giorno 14 gennaio a Makassar, in Indonesia. Praticamente dal comunicato che si legge dalla stampa quella indonesiana, si legge che ieri sera 14 gennaio intorno alle 2 tre sportelli bancomat della banca Mandiri sono stati attaccati con rondini incendiari. Le porte e le finestre degli ingressi si sono spalancati dalla forte esplosione. Una macchina è stata completamente distrutta, mentre un'altra macchina è stata parzialmente distrutta. E questa era per quanto riguarda dall'Indonesia. Sicuramente arriverà qualche rivendicazione, qualche testo a breve, anche perché ultimamente in Indonesia la situazione è bella calda. Invece un'altra ci arriva da Nicosia, a Cipro, dove esplode un ordigno sotto l'auto di un secondino. Leggiamo anche per questo caso il testo. Appena dopo le 2 del giorno 13 gennaio, un ordigno incendiario ad alta intensità è esploso sotto l'auto di una guardia carceraria che era parcheggiata davanti alla sua casa nella zona di Lazia, o Lazia, non lo so come si legge. La vettura è stata quasi completamente distrutta durante l'attacco e danni sono stati causati anche alla macchina della moglie dell'ufficiale carcerario. Il responsabile della direzione delle carceri, Yorgos Trifonidis, ha detto che ci sono sospetti su alcune persone. Egli ha menzionato alcune persone di cui non ha fatto il nome, che a suo dire attaccano gli agenti di polizia penitenziaria e spingono i prigionieri a ribellarsi contro le guardie. Allora, questa era la seconda azione. Ora ci ascoltiamo Radio 4 con il brano Enemy Like This e poi dopo la lettera dal carcere.